Fonte Radio. La copertina di oggi è una foto di Michele Lapini. Al centro della foto c'è una donna, giovane, bianca, con una tuta rosa. Nelle mani bastoncini da sci. Nei piedi scarponi da sci. Gli sci in realtà non si intravedono perché lei è sull'impianto di risalita, una sorta di tapis roulant. Immaginiamo vada a sciare, immaginiamo, dico, perché in realtà nello sfondo non si vede la neve non c'è da nessuna parte. Si vedono dei pini, degli abeti, si vede della terra, dei sassi. Il paesaggio è marrone e verde, non bianco. Forse proprio in fondo si intravedono dei cannoni sparaneve. Le terre alte bruciano, non è una metafora. Lo zero termico a 4200 in pieno autunno, i ghiacciai che si sfaldano, il permafrost che si scioglie, le alluvioni devastanti. Tutto questo è la realtà quotidiana delle nostre montagne ormai. Una realtà che stride con l'ostinazione di chi dalle Alpi agli Appennini continua a proporre un modello di sviluppo anacronistico e predatorio, basato su pratiche estrattive e grandi eventi come i giochi invernali. Il tempo delle mediazioni è finito. Gli scienziati ci dicono che l'ultimo turista sugli sci arriverà nel 2040. Eppure si continuano a costruire nuovi impianti di risalita, a scavare bacini per l'innevamento artificiale, a devastare versanti per inutili collegamenti tra comprensori. Dalle Alpi agli Appennini, dalla Val Susa alla Basilicata, assistiamo allo stesso copione. Opere nocive imposte dall'alto, trivelazioni, cementificazione, spopolamento. Stiamo aprendo questo Ponte Radio di oggi, 7 febbraio 2025, con le parole della chiamata, del comunicato che l'Alveare di Ape, Associazione Proletaria Escursionisti, ha lanciato per il 9 febbraio, per una giornata di mobilitazione in montagna. E insomma, sono parole che secondo me condividiamo appieno. Sì, le condividiamo appieno, anche perché da Bologna possiamo vedere la realtà che è più vicina a noi, che è la realtà dell'Appennino emiliano, dell'Appennino tosco-emiliano, anche tra Bologna e Firenze, anche verso Modena, che incarna perfettamente la descrizione che vi abbiamo appena letto. E, è un Appennino in cui ci sono in ballo un sacco di progetti, nonostante la situazione non sia per niente florida, diciamo. E infatti più tardi chiameremo una compagna che vive in Appennino, che fa parte dei sollevamenti della terra in marcia, che ci parlerà proprio della sua esperienza e di questi fatti. E sì, oggi vi proponiamo un po' di audio, un po' di interviste, voci diverse dalle nostre, e, perché a Bologna stiamo seguendo un po' questa chiamata per il 9 febbraio. Ci sono varie realtà bolognesi che un po' si sono attivate, e noi da Brave Spore Diffuse quali siamo abbiamo seguito un po' queste iniziative e abbiamo per voi, stavo per dire calde ma forse fredde, perché vi stiamo parlando da un posto molto freddo, con tanti cappotti e umidi. E quindi ecco, abbiamo per voi fresco un po' di appunto di queste registrazioni che abbiamo fatto, di queste interviste che abbiamo fatto. La prima che abbiamo per voi è stata registrata all'incontro che è stato fatto al Circolo Arci Guarnelli di Bologna. È un evento organizzato da Ape Bologna e dalla Palestra Popolare Gino Milli, E insomma, lì si è parlato di diverse cose. C'è stato un compagno del CIO, del Comitato Insostenibili Olimpiadi, due compagni di Ape Milano, insomma, varie realtà. Beh, anche due persone proprio della palestra popolare che ci hanno parlato dello sport popolare in relazione invece al modello di sport olimpico e il ponte tra il modello di sport olimpico e la montagna sono proprio le Olimpiadi del 2026 Milano-Cortina. Abbiamo qua con noi Abo di Ape Milano all'incontro Lo sport dei grandi eventi e la devastazione dei territori. Questa sera si parlerà appunto di Olimpiadi, di montagna, di luoghi di conflitto nello sport, conflitto di classe, di razza, di genere. E quindi ti volevamo appunto chiedere se ci davi alcune considerazioni al riguardo e anche appunto il rapporto fra Olimpiadi e montagna che insomma che visione, che immaginario si propone. Allora, le Olimpiadi moderne nascono nel 1896 e in particolare a partire dagli anni 20, quindi concluso la Prima Guerra Mondiale, per l'intero Novecento e fino ai giorni nostri sono stati un luogo di conflitti. Quindi sarebbe necessaria una controstoria delle Olimpiadi per vedere come tutte quelle istanze che oggi vediamo non soltanto come sussunte, ma spesso elette in termini di immaginario, di branding, la dimensione del genere, la dimensione della razzializzazione, la dimensione popolare, così in realtà siano state l'espressione di conflitti aperti, conflitti sia che provengono dai boicottaggi tra stati, ma anzitutto da istanze del movimento femminista, istanze del popolo, istanze delle Black Panthers. Cioè, spesso si usa dire che lo sport è un fatto sociale totale, una categoria sociologica per dire che lo sport è qualcosa, e quindi le Olimpiadi come momento apicale della pratica sportiva, che trasforma profondamente una società e a sua volta trasforma profondamente la civiltà che la ospita. Quindi al suo interno porta sia i valori dominanti, sia i conflitti, le contraddizioni, i diritti negati e via discorrendo. In particolare le Olimpiadi invernali non soltanto sono il momento apicale in termini di capacità di magnetica di attrarre soldi, persone, attenzione, ma si sono sempre qualificate in dei luoghi particolarmente fragili, quale in questo caso nel ticket Milano-Cortina 2026 l'ambiente alpino, però pensiamo ai cinque continenti, territori montani che confliggono immediatamente con la pratica sportiva. La pratica sportiva è qualcosa che ha un perimetro di regole, un perimetro di gioco, un perimetro di tempo e quindi un ambiente che si presume in qualche misura domesticato, secondo regole più o meno ferree. È una forma molto particolare del gioco, molto particolare della competizione, molto particolare della cooperazione. L'ambiente montano, per definizione, non è un ambiente domesticabile, è un ambiente in cui nella viandanza, sia nelle discipline, tra virgolette, più prossime alla dimensione sportiva, alpinismo, lo sci alpinismo e via discorrendo, sia nel puro camminare individuale o corale, invece si fa in un ambiente aperto, in cui l'umanità è ospite, in cui ci sono interessi concorrenti, di fauna, flora, dimensione, diciamo, delle componenti meteorologiche, atmosferiche, un ambiente che può essere ostile, specialmente se attraversato avendo soltanto l'obiettivo della competizione, e quindi un ambiente in cui dare la percezione, la proiezione che sia possibile dominarlo, domesticarlo, controllarlo, da una parte può generare pericolo, insicurezza, rischi, e dall'altro crea ovviamente degli impatti che possono essere irreversibili, impatti sulle falde acquifere, impatti sui versanti, impatti derivanti soprattutto da quello che sono oggi le Olimpiadi, cioè non un evento anzitutto sportivo, ma un evento anzitutto turistico, che porta una logica concentrazionaria, quindi tanti rifiuti, tanto consumo energetico, tante persone, tutte nello stesso posto, nello stesso momento. Questo genera una dinamica dicotomica, località che si vanno progressivamente spopolando e località in cui la monocultura turistica diventa estrattiva, cioè in alcune settimane produce tantissimo, poi svuota, questo genera lavoro precario, pressione sull'ambiente e anche l'insicurezza verso un futuro che viene svuotato per le comunità, diciamo, che lo abitano e non lo attraversano, di quei servizi essenziali che invece fanno una vita degna. Quindi le motivazioni sono tante, però l'idea di base è che in particolare le Olimpiadi invernali, apparentemente un po' più piccine di quelle cui si alternano estive, si tendono a fare in ambienti molto fragili che vivono di una pressione negli anni sia della prima della realizzazione della progettazione, quindi realizzazione delle infrastrutture necessarie, e poi dopo nella legacy, diciamo nel momento dell'eredità, di momenti di fortissimi sbalzi tra una dimensione della normalità e la dimensione del grande evento. Questo è problematico nel rapporto tra l'umanità e l'ambiente perché è fortemente diseducativo, oltre che pericoloso per chi abita le montagne. Un po' a volte il rischio può essere lo sport, negare la possibilità dello sport invernale, dello sci, renderlo una cosa magari per ricchi eletti che si possono permettere magari, o persone avventurose che si possono permettere di fare magari sci alpinismo, e quindi delle volte nelle proteste contro gli impianti, contro gli sport invernale, viene fuori comunque una dimensione di classe che, cioè, non è banale da affrontare. E quindi avere questa prospettiva, diciamo, ambientale, cioè che non va comunque tanto a colpevolizzare il singolo, per cui tu stai facendo questa attività sportiva e ti colpevolizzo per questa cosa qua, ma più una presa di coscienza comunque di quello che ha, soprattutto in occasione di grandi eventi che comportano, come appunto i vari elementi che hai toccato te, dalla precarietà lavorativa che poi va appunto investire comunque sempre un altro discorso di classe, e dalla devastazione ambientale, veicolare certi valori capitalistici e quant'altro. Non so se volevi aggiungere qualcos'altro. Sì, da un punto di vista anche di immaginario, comunque le Olimpiadi, che hanno pure una loro varietà di discipline, nel caso invernale 16, in questa occasione più 6 paralimpiche, comunque sono fortemente schiacciate e da un punto di vista delle infrastrutture e delle strutture che si propongono, e da un punto di vista appunto di immaginario di località che vengono spinte, Bormio, Livigno, Cortina, sullo sci di pista. Questo significa parcheggi, impianti a fune, ristorazione, alberghi, e quel tipo di sci, che è il più impattante sotto il profilo chiaramente dei cannoni sparaneve, soprattutto nella cornice del cambiamento climatico, è particolarmente pernicioso perché fa invece nel quotidiano una distinzione di classe. Oggi un qualunque ski lift, uno ski pass giornaliero nell'arco alpino, diciamo per tenerci l'arco alpino, costa dai 38-40 agli 80-100 euro. Oggi le località che sopravvivono a centinaia chiudono anche solo a singhiozzo oppure definitivamente ogni anno. Quelle che sopravvivono sono comprensori sempre più importanti e sempre più impattanti, e il modello che si scorge rincorrere, guardando per esempio alle Alpi svizzere, è quello nordamericano. Nel caso nordamericano, in cui tantissimi comprensori sono in questa stagione, negli ultimi anni in fase di acquisizione da parte della Disney Corporation, gli ski pass costano fino a 200-250 euro al giorno, e tante località delle Alpi svizzere, le più blasonate, in questo momento soffrono di queste OPA, di questi tentativi di acquisizione da parte di soggetti come quello che citavo, e questo attendere ci dà una cartolina, una fotografia di quello che è il futuro dello sci. Comprensori sempre più grandi, contatto su ambienti sempre più fragili e più alti in quota, e quindi anche costi sempre più rilevanti. È un tipo di futuro indesiderabile sostanzialmente. Grazie Abo. Grazie a voi. Nessi e Zune, Genova nella Latina America, da ne in vista da bir arayışta özgürlük içinde, özgürlük kafanda, özgürlük özgürlük sen neredeysen orada. Özgürlük içinde, özgürlük kafanda, özgürlük özgürlük sen neredeysen orada. Ne sokakta, ne meydanda, ne kampüste, ne yolda, ne mahpusta, ne torna tezgahında. Özgürlük içinde, özgürlük kafanda, özgürlük özgürlük sen neredeysen orada. Özgürlük içinde, özgürlük kafanda, özgürlük özgürlük sen neredeysen orada. Yarsan hem Genova hem Latin Amerika'da, hem Hindistan'da bir arayışta. Özgürlük elinde, özgürlük seninle, özgürlük özgürlük sen oradaysan orada. Özgürlük elinde, özgürlük seninle, özgürlük özgürlük sen oradaysan orada. Hem sokakta, hem meydanda, hem kampüste, hem yolda, hem mahpusta, hem torda tezgahında. Özgürlük elinde, özgürlük seninle, özgürlük özgürlük sen oradaysan orada. Özgürlük elinde, özgürlük seninle, özgürlük özgürlük sen oradaysan orada. Io sono Elio del Laboratorio Politico Off Topic, che è una delle, diciamo, delle realtà che anima, che ha animato e che ha dato vita al CIO, che appunto è Comitato Insostenibili Olimpiadi, che è questa rete di collettività, singoli, associazioni, che è nata soprattutto, diciamo, all'interno del movimento e delle mobilitazioni sociali contro le Olimpiadi di Milano, ma che poi ha avuto una sua espansione anche negli ultimi anni fuori. Lo racconto, lo dico perché, ecco, appunto all'interno del CIO, che è questa, prima è nato, diciamo, sono nate le relazioni tra collettività differenti, poi è nata l'idea di provare a costruire, a mettere insieme delle istanze politiche che sono partite da anche livelli diversi, quelli appunto del diritto, della lotta per il diritto all'abitare, delle palestre e dei collettivi per lo sport popolare, delle associazioni e dei gruppi appunto dell'alpinismo militante, l'alpinismo critico appunto come APE, così come di singoli ricercatori, ricercatrici, giornalisti che si sono ritrovati dal 2019 in avanti in una serie di appuntamenti, di incontri, e che a un certo punto hanno deciso appunto di darsi una cornice, un nome comune per portare avanti una lotta comune. Dico dal 2019 perché appunto è l'anno in cui il tandem Milano-Cortina vince sostanzialmente per resa degli avversari o per ritiro degli avversari la nomina a sede appunto delle Olimpiadi Invernali del 2026. Decidiamo di chiamarci CIO, Comitato Insostenibili Olimpiadi, ma nell'acronimo anche fare, diciamo, il verso al Comitato Olimpico Internazionale, che è uno degli organismi internazionali della governance del grande evento, dei grandi eventi olimpici e cosiddetti appunto sportivi. E all'interno della vertenza del CIO, delle vertenze e delle mobilitazioni del CIO, cerchiamo in qualche modo, abbiamo cercato di raccontare e di portare avanti delle vertenze che racchiudessero un po' i diversi livelli di criticità che abbiamo individuato all'interno appunto delle Olimpiadi Invernali del 2026. Quindi, diciamo, il CIO è una rete, un comitato, una rete di realtà, dicevo, prevalentemente milanesi, ma di cui fanno parte anche soggetti collettivi e singoli fuori da Milano, anzitutto nel Veneto, ma non soltanto. Questo perché abbiamo comunque voluto in qualche modo che il CIO come realtà, come sigla, fosse una sigla tra virgolette volante, decentralizzata, e che venisse fatta propria da tutti coloro e quali vogliono combattere quello che è il modello economico di nocività ambientale e di diseguaglianza sociale che precede, informa e segue in qualche modo il grande evento olimpico. Ok, quindi diciamo che le Olimpiadi per noi non sono ovviamente l'evento che esaurisce tutte le criticità dell'esistente, ma sono in questo momento, anzitutto nei territori direttamente interessati, nei 400 chilometri di arco alpino direttamente interessato, ma in generale all'interno del territorio italiano, sono uno degli eventi, come veniva detto anche prima, su cui si concentrano capitali e attraverso il quale si cerca in qualche modo di velocizzare trasformazioni territoriali, secondo noi, negative. Il termine appunto insostenibile racconta un po' uno dei due termini, i due aggettivi con cui abbiamo interpretato fin dal 2019 le Olimpiadi. Uno era quello della insostenibilità, a dispetto invece della propaganda, perché si tratta di propaganda vera e propria, che presentava le Olimpiadi invernali del 2026 come il primo grande evento sostenibile dal punto di vista ecologico ed economico, e così non è. Ma l'altro, diciamo, aggettivo, l'altra caratteristica è quella della indesiderabilità, quindi un evento indesiderabile per chi, per i territori, per le popolazioni i cui stati, le cui istituzioni invece si candidavano a ospitare l'evento. Purtroppo il tema dell'indesiderabilità è venuto meno nel momento in cui ci siamo ritrovati Milano e poi Cortina, diciamo il territorio veneto, con anche un pezzetto di Trentino Alto Adige, a invece ospitare nostro malgrado questo evento. Ma invece il tema della insostenibilità, secondo noi, resta centrale, resta quello su cui concentrare anche la lotta da qui in avanti, per un semplicissimo motivo: le Olimpiadi si faranno, il grande evento si farà, si svolgerà. Noi non ci illudiamo, come magari era stato per altri grandi eventi passati e purtroppo magari futuri con cui ci capiterà di confrontarci, di poterlo fermare. Il grande evento si giocherà, si farà, però si può giocare tuttora una partita su quella che sarà l'eredità effettiva del grande evento, delle infrastrutture sia urbane che anche nelle terre alte che verranno realizzate per l'appuntamento del 2026, o con la scusa dell'appuntamento del 2026, e diciamo, questo secondo noi è un po' il tema centrale, il fatto che dobbiamo cominciare a concentrare e a denunciare appunto quello che si può ancora fermare per invertire un modello di sviluppo che le Olimpiadi rappresentano bene e che è, dal nostro punto di vista, insostenibile. Lo è da un punto di vista, diciamo, economico, perché a fronte, diciamo, del dossier iniziale di candidatura, i sovraccosti di questi ultimi anni hanno portato, diciamo, la quota di spesa pubblica per l'evento a superare i 5 miliardi di euro pubblici. Ma sappiamo anche che si tratta di un evento insostenibile da un punto di vista ecologico, ambientale, un evento che non va a come dire, sostenere attività sportive o servizi sportivi di base territoriali, ma va soprattutto a sostenere un modello di turismo e di sfruttamento anzitutto delle terre alte, ma anche a livello urbanistico, a livello cittadino, un modello di sport privatizzato e diciamo a beneficio di pochi e a scapito e a danno dell'ambiente soprattutto e degli ecosistemi soprattutto nelle terre alte. Ma lo è anche da un punto di vista, diciamo, l'insostenibilità, da un punto di vista sociale, perché, e questo lo vediamo perfettamente nel piano, diciamo, cittadino del territorio di Milano, rappresenta, si inserisce all'interno di quelle trasformazioni della città, trasformazioni urbanistiche, che vanno sostanzialmente a alimentare l'espulsione non soltanto dei ceti meno abbienti, dei ceti a più basso reddito, ma anche del ceto medio, che non può più, in particolare nel territorio milanese, ma non soltanto, permettersi di vivere sostanzialmente nella metropoli, nella città metropolitana di Milano. Montagna di soldi, lo faccio davvero, ne voglio contare troppi. Se siamo i più forti, se ne sono accorti, ti coprirò d'oro, baby, costi quel che costi, ma se non succede. E il tema, quindi, diciamo, dell'insostenibilità, secondo noi, è in qualche modo anche la questione, la chiave di lettura attraverso cui interpretare questo evento. Spesso quando facciamo diciamo delle iniziative anche fuori, all'interno della città, dobbiamo raccontare perché rappresentano un problema in qualche modo anche per il territorio urbano. Fuori c'è molto spesso questa immagine, questa contrapposizione tramite cui si leggono le Olimpiadi tra città e montagna, che è sicuramente un tema, perché le Olimpiadi sono un evento urbano che trasforma la città e dall'altro lato però sono un evento anche che si svolge nelle terre alte, ma trasformando le terre alte in funzione di un turismo che ha origine soprattutto nella città. Ma la verità è che secondo noi la contraddizione principale è quella sociale, perché non esiste una città di Milano che beneficerà delle Olimpiadi a scapito delle montagne, così come non esisteranno soltanto popolazioni montane nella loro totalità che subiranno dei danni per le Olimpiadi. È un discorso anche di interessi e di segmenti sociali. All'interno della città di Milano sono ad esempio gli abitanti dei quartieri popolari del sud-est di Milano, di Corvetto, che è drammaticamente diciamo salito alla ribalta nelle cronache nazionali per l'omicidio di Rami da parte dei carabinieri al termine di un inseguimento, e che è uno dei territori, insieme alle altre periferie del sud-est milanese, che sono direttamente impattate, direttamente interessati dalle infrastrutture olimpiche a Milano, il villaggio olimpico e il palaghiaccio che si trovano appunto, che verranno realizzati appunto in quelle zone. E zone altamente popolari che stanno già subendo un'espulsione precedente alle Olimpiadi e che con le trasformazioni olimpiche stanno vedendo anche diciamo i valori dell'affitto e dell'abitare aumentare diciamo a livello record all'interno del territorio milanese. Ma si tratta anche di un'insostenibilità sociale sulle terre alte, perché un evento che vuole in qualche modo sostenere, all'interno del quale nei dossier di candidature, nei dossier diciamo delle infrastrutture si inseriscono anche nuovi impianti di risalita e anche nuovi bacini idrici per l'innevamento artificiale in una serie di stagioni che ormai possiamo dire negli ultimi anni hanno in qualche modo subito la crisi climatica e la crisi anche dell'inverno, per come lo intendevamo precedentemente, e all'interno del quale quindi diciamo un modello di turismo continua a essere tenuto in vita tramite fondi e finanziamenti pubblici. Beh, questo va a sostenere diciamo chi, i proprietari e i padroni in qualche modo di un settore turistico che invece viene alimentato e viene sostenuto sulle spalle invece del resto dell'economia montana, delle valli e delle terre alte. Questo quindi secondo noi è in qualche modo anche il discorso principale. Sono Olimpiadi insostenibili, indesiderabili per chi? E quindi per chi bisogna portare avanti in qualche modo invece le lotte giuste per poter invertire la rotta e poter impedire, ed è una cosa che possiamo ancora fare, che alcune infrastrutture vengano realizzate, che alcune opere vengano realizzate, che soprattutto l'eredità di quegli impianti non vada per l'ennesima volta diciamo nelle tasche a vantaggio degli operatori privati che le erediteranno, ma invece a beneficio della collettività. E beh, direi che mi fermo qua. Grazie. Moses led. Oh, tell it on the mountain. Ponte Radio. E bentornate, bentornati su Ponte Radio, uno spazio di coordinamento fra radio auto-organizzate, ogni venerdì dall'una alle due e mezza su Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Neanderthal, Radio Eustachio, Radio Quar e Radio Spore, che tiene la puntata di oggi, Sciare sull'asfalto, parliamo di montagna. Vi presentiamo la seconda copertina della puntata. E vi ricordate la sciatrice di prima? Quella su un impianto di risalita con gli sci ai piedi in mezzo al verde. Ora scia, ce l'ha fatta, è salita e ora scende, carina, comoda. E il famigerato sparaneve che scorgevamo dietro di lei le ha creato un fantastico fiume bianco immerso in mezzo al verde. Lei e altri sciatori possono scendere la montagna nell'unica lingua bianca e grazie a questa lingua bianca gli impianti di risalita sia sugli Appennini che sulle Alpi scongiurano forse il fallimento. Facciamo la discesa della morte! La discesa della morte! Che sulla la discesa della morte! Ma non sugli sci, su quelli! La montagna però non è un parco giochi da sfruttare fino all'ultimo respiro. È un ecosistema fragile ed è la nostra principale riserva d'acqua. È un patrimonio di biodiversità e cultura insostituibile. Infatti siamo andati alla presentazione che è stata fatta a VAG, uno spazio bolognese, e da APE. E, lì abbiamo visto, abbiamo ascoltato, abbiamo registrato per voi Giuliano Bonanomi, uno studioso di patologia vegetale dell'Università di Napoli, che ci ha fatto proprio una panoramica su questo fenomeno, cioè come gli impianti in risalita, secondo gli studi, devono lavorare almeno 100 giorni per non andare in rosso, e quindi durante l'inverno è necessario, anzi, come dicevi tu, essenziale che siano aperti, neve sì o neve no. E tanto è stata inventata la neve artificiale dal genio umano, quindi si può fare. E vi facciamo ascoltare qualche frammento in cui ascoltiamo appunto Giuliano Bonanomi, che ci parla di un po' sul clima, un po' sul resto. Quindi questi impianti di risalita hanno trasformato queste attività, hanno trasformato in una attività di massa, però hanno anche aspetti negativi. Quali sono gli aspetti negativi degli impianti di risalita? Finiamo quindi per gli aspetti positivi per molti. Sono sicuri, relativamente sicuri. Qualche settimana fa uno si è sganciato, una ciclovia in Spagna, però sono eventi rapidi. Okay? Sono divertenti perché non si fa fatica, si va giù e giù, su e giù. Però l'aspetto negativo è che sono molto costosi, sia da fare, ma sia per la manutenzione, perché stanno in alta montagna, fa freddo, c'è la neve, la pioggia, il vento, e quindi la manutenzione è molto costosa. E succhiano molta energia, perché le ruote lì per farle girare ci vuole un sacco di energia elettrica. E quindi gli economisti hanno fatto una serie di conteggi, e questi conteggi ci dicono che un impianto di risalita, per mantenersi in vita, funzionale e economicamente utile, cioè ci fanno un po' di soldi, quindi possono andare avanti questa attività, deve stare aperto 100 giorni. E funziona 100 giorni, se ne sta aperto 20 giorni che non ci pare, si fa il fallimento, quindi la regola dei 100 giorni. E questo è importante perché la dobbiamo andare a confrontare con quello che abbiamo detto prima. Cosa abbiamo detto prima? Che il numero di giorni di neve sta diminuendo, e quindi sono tantissime località dove 40 anni fa ci stavano 100 giorni e adesso non ce ne stanno, ce ne sono 70, 60, 40. Questo è il punto fondamentale: senza 200 giorni non si può stare aperti. Ma l'uomo, non faccio mi arrendo subito questa. Ha tante strategie, una di queste è anche intelligente, un animale molto intelligente, e quindi si è inventata una cosa: la neve artificiale, la neve programmata, si dice artificiale, programmata. Quindi si è inventato la neve programmata per ritornare quei 100 giorni. Questa la neve la faccio io, okay? Ecco. E quindi questa è stata inventata per caso da un americano, mi sa, negli anni 40, mi pare, che studiava i motori degli aerei, no? C'erano gli esperimenti, a un certo punto, un esperimento, è uscita la neve da dietro, no? E ha capito che una serie di condizioni si poteva generare. L'ha brevettato subito negli anni 50, ha iniziato a usarlo e quindi ha avuto un grande successo. Qual è la dipendenza attuale dal coordinamento programmato? Vedete qua è un dato del report di Legambiente. L'Italia, ovviamente un clima più mediterraneo, ha una maggiore dipendenza, il 90% degli impianti c'è la neve programmata. In Germania fa più freddo, siamo al 25%, però questi numeri sono di qualche anno fa, stanno aumentando, quindi in Italia siamo vicino al 100%. Due parole, non si può fare sempre la neve programmata, se c'è qualche fisico che me lo spiega meglio di me, che dipende dalla temperatura e dall'umidità dell'aria. Che sembra incredibile, ma se c'è un'aria assolutamente secca, al 10%, io posso fare la neve anche con 5 gradi di temperatura. Invece, se c'è l'aria umida all'80% o 90%, io ci vogliono 2 gradi sotto zero. Sfortunatamente sugli Appennini e qua siamo quasi sempre in queste condizioni. Quindi per farla non è che si può fare sempre, si può fare, ci deve essere un grado, meno uno, meno due, con le umidità di solito che abbiamo noi. Quindi questo ci dice quando possiamo farlo. Sappiamo anche che in Italia siamo tra i leader, sono aziende leader nella capacità di produrre questi cannoni sparanieri che non sono esattamente comunicissimi, vedete si possono fare anche con queste strutture semoventi, ad esempio se facciamo le quelle eventi con Red Bull che fanno lo snowboard nelle città, portiamo il camion che ce la fa direttamente in loco. Però quali sono gli effetti negativi? Tra gli effetti negativi di questa neve artificiale e per studiare questi impatti, non l'ho studiato solo io, ma diciamo questa è una delle riviste scientifiche più importanti, è Nature, e quindi vedete che ci sta un cannone sparaneve in copertina sotto i costi di fare la neve. Quindi cerchiamo di capire quali sono questi costi di fare la neve artificiale. Prima di tutto costa proprio fare la neve artificiale, cioè, proprio costoso. Quanto costa? Siamo tra i 3 e i 10 euro per metro cubo, equivale a 5.000-16.000 euro per chilometro di pista. Poi c'è un altro problema, che okay? Poi quando la temperatura sale tende a sciogliere. Okay? E quindi può alleviare solo in parte la regola dei 100 giorni. L'esempio dell'inverno, non quest'anno, l'anno scorso, tanti impianti teschi sono entrati in grandi difficoltà perché c'erano delle lotte intestine tra i vari gruppi di interesse. Il caso del Terminillo, c'era un impianto abbastanza alto, 1.800, dove gli impianti, quelli che c'erano gli hotel e i maestri di sci dicevano al gestore degli impianti dove devi fare la neve artificiale e lui non la faceva. E dice, quindi c'erano litigi sul giorno, perché non la faceva? E non è completamente scemo questo, cioè 15 km di piste. Se deve fare la neve artificiale, lui al Piave spendeva 100.000 euro in un weekend, gli vedeva le previsioni medie. E cosa succede in Appennino? Che non fa la neve, arriva al freddo, però dopo gira a scirocco e la temperatura va a 8 gradi, 7 gradi. Lui ha speso 100.000 euro e dopo due giorni era tutto sciolto. Quindi questo è il grande problema negli Appennini, l'alternanza di giorni caldi e di giorni freddi, dove che se noi stiamo in Austria, stiamo in posti, ad esempio in Cina, ci sono delle montagne dove hanno fatto le Olimpiadi invernali, non ci nevica mai. Tu fai la neve a ottobre e quella te la ritrovi fino a marzo, invece da noi no, tu la fai dopo due giorni e se l'è andata. E questo vale per tantissimi contesti. E in più consuma acqua. Consuma la neve normale quando cade dal cielo pesa 200 kg per metro cubo, invece quella artificiale è molto più densa, 500-600 kg. Quindi per fare un metro cubo di neve con un metro cubo di acqua facciamo solo 2 metri cubi di neve. E in più questa ci serve in grande quantità in poco tempo, in quella notte che fa freddo, prima che arrivano le vacanze di Natale dobbiamo fare tanta neve e dove prendiamo tutta quell'acqua. Per farlo obbligatoriamente siamo costretti a fare degli impianti, dei bacini artificiali dove noi stoppiamo l'acqua e in pochissimo tempo la usiamo con le pompe, altrimenti non è che la posso prendere dal ruscello, okay? In quel lasso temporale molto breve. Il topo corre dalla montagna, da 1.000 pietre per il muratore che la fontana lui rifarà, che l'acqua fresca ne sgorgerà, che alla campagna la spargerò, che l'erba verde lei mi darà, che la capretta la mangerà ed i suoi suo latte mi donerà ed il bambino si salverà. Ma la montagna già sembra morta, hanno tagliato ogni filo d'erba, non c'è più albero a farle ombra, non gli risponde come si fa. Montagna mia, te lo prometto, dammi le pietre per il muratore, che la fontana lui rifarà, che l'acqua fresca ne sgorgerà, che alla campagna la spargerò, che l'erba verde lei mi darà, che la capretta la mangerà ed il suo latte mi donerà ed il bambino si salverà, che quando un uomo diventerà gli alberi alti ripianterà ed il tuo bosco ritornerà. Le pietre bianche io ti darò, gli dice piano quella montagna ed il bambino si salverà. Il topo cava le bianche pietre, le porta presto dal muratore, che la fontana lui rifarà, che l'acqua fresca ne sgorgerà, che alla campagna la spargerà, che l'erba verde lei gli darà, che la capretta la mangerà ed il suo latte gli donerà ed il bambino si salverà, che quando un uomo diventerà gli alberi alti ripianterà e la montagna sorriderà. Sabato scorso al VAG c'erano anche dei compagni del movimento di Prato Magno senza asfalto. Il Prato Magno è questa montagna fra Firenze e Arezzo che, insomma, per le persone del posto ha molto un valore, non vorrei usare il termine valore anche in vista di quello che stiamo per dire, no? Però ha un'importanza non solo ambientale ma anche quasi un po' a livello di identità. Insomma, c'erano delle persone di questo movimento Prato Magno senza asfalto. Cioè, quando si parla di montagna, di turismo in montagna, di impianti, di asfaltatura delle strade, di insomma vari interventi antropici nell'ambiente montano, spesso si usa appunto la parola valore, valorizzazione. Sì, insomma, c'è sempre questa dicotomia fra il ok, lasciamo la natura incontaminata, ma poi le persone del posto non hanno lavoro, non hanno, cioè c'è sempre questa specie di economia versus ecologia, no? Che è un po' un falso dibattito. Quindi secondo me ci sta se ci sentiamo questo intervento che faceva appunto Andrea del Movimento Prato Magno senza asfalto, che ci dà un po' un'opinione interessante, che dici? Sì, direi una bella definizione del termine valorizzazione e di come si possa prendere sotto diverse sfaccettature. Ci ascoltiamo. Grazie. Io mi chiamo Andrea, faccio anch'io parte del Movimento Prato Magno senza asfalto, in particolare anche di un'associazione che si chiama Il Vercio, che è proprio tipica del paesino dove io sono residente da 15 anni, che si chiama Loro Ciuffella. Vorrei aggiungere, abbiamo parlato molto di sensibilizzazione, e naturalmente di valorizzazione, della giusta interpretazione della parola valorizzazione, che nell'interpretazione sbagliata viene vista appunto come estrazione di valore monetario, e quindi questa è la logica, no, che presiede a molte di queste amministratrici e amministratori, perché per noi la valorizzazione potrebbe consistere nella manutenzione delle ricchezze esistenti. Se noi ci sentiamo parte della natura nella quale viviamo, abbiamo dei compiti di manutenzione che, se non vengono svolti, obiettivamente costituiscono l'apertura della strada a chi intende appunto invece la valorizzazione come estrazione di valore monetario. Grazie che faccio montagne di soldi col 2.0 Beats 2.0 Beats 2.0 Saldi, saldi, saldi, saldi. Rich, raga, raga, raga. Beats 2.0 Beats 2.0 Saldi, saldi, saldi, saldi. Rich, yalla, yalla, yalla. Beats. sempre a proposito di valorizzazione, estrazione del valore monetario e quant'altro, c'è qua a Bologna Sollevamenti della Terra, che adesso andremo a sentire, uno degli non degli slogan, ma anche banalmente degli striscioni che portavano in marcia era no alla seggiovia, riapriamo neonatologia, perché ci sono poi gli ospedali in Appennino che chiudono i reparti, però poi i soldi vengono investiti in impianti, no? E c'è sempre questo discorso sul soldo, sul valore, sul valore monetario che aleggia sempre, no? Sì, sembra quasi che appunto la valorizzazione del territorio che viene proposta è una valorizzazione che porta appunto all'estrazione di valore monetario, quindi al profitto di qualcuno sulle opere e grazie alle opere che vengono costruite. Il punto che poi ci spiegherà appunto la compagna dei Sollevamenti della Terra è che c'è una gran differenza tra il valore che possono portare delle grandi opere che riguardano il turismo o un tentativo di rendere la montagna più disponibile per esempio al turismo rispetto a un discorso di valorizzazione del territorio, quindi di resa di quel territorio più vivibile e più abitabile dalla popolazione, cioè una valorizzazione per esempio dei servizi di base che possono essere dai trasporti a di nuovo il sistema sanitario. Siamo adesso al telefono con una compagna dei Sollevamenti della Terra in Marcia che ci parlerà della sua esperienza politica e di vita in Appennino, nell'Appennino emiliano. Ciao, buondì, grazie per essere con noi oggi e per raccontarci un po' quali sono i progetti che negli ultimi tempi avete analizzato con l'Assemblea dei Sollevamenti della Terra e in generale un po' per raccontarci cosa succede in Appennino e qual è l'impatto che questi progetti, queste opere hanno sul tessuto sociale ed economico del luogo in cui abiti. Ok, guarda, io vivo in Appennino dal 2003. E cambiando varie case, e in questo momento abito, vivo a Labante, che è una frazione di Castel d'Aiano, quindi tra Castel d'Aiano e Vergato. Perfetto. E per quanto riguarda invece i sollevamenti di cui faccio parte, nasciamo nel 2023. 22, scusami, l'idea, dopo tutto un avvenimento specifico in cui erano state fatte delle scritte contro la seggiovia, la nuova seggiovia, il progetto della nuova seggiovia, decidiamo che valeva la pena, che è importante coinvolgere non solo persone che sono di per sé già attive, quindi attiviste su problemi ambientali o sociali di vario tipo, ma anche persone della montagna che comunque subiscono in qualche modo, senza, vuoi per la vita quotidiana che devono fare, via di seguito, senza sapere bene, subiscono progetti come la nuova seggiovia al Corno le Scale, o più recente la situazione che si sta verificando a Camugnano, tra Camugnano e oddio, è Castiglione dei Pepoli, dove adesso vogliono fare in un progetto nazionale, è stato preso questo luogo per un nuovo impianto di pale eoliche, quando già era stato bocciato 12 anni fa un tentativo di impianto di pale eoliche, perché il territorio non può sopportare un'opera di questo tipo, e non solo, C'è un progetto della città metropolitana legato al Brasimone, alla centrale NEA che lì è collocata, di in qualche modo riproporre ricerche sostanziose e ben finanziate sul nucleare. Diciamo certo. Che al momento i punti che noi abbiamo preso, perché sono comunque opere grandi, inutili e costose, sono questi. Quello che noi vediamo nel nostro territorio è che vengono vincolati, ed è questo un punto importante, vincolati i soldi per finanziare queste opere e queste cose, nel momento in cui ci stanno togliendo tutti, cioè stanno sgretolando tutto il servizio sanitario, che in Appennino è molto sentito, perché sono stati costruiti due nuovi ospedali, funzionano a metà, funzionano male, non ci sono sanitari, tecnici che vengano a lavorare qua, non vengono finanziati chiaramente, e via via viene sgretolato il sistema sanitario, un po' in generale in tutta Italia, e diciamo in Appennino si sente molto questa cosa, e nel momento in cui però vengono finanziati con soldi pubblici e vincolati a quelle opere che, come la seggiovia, ad esempio la nuova seggiovia, perché appunto sappiamo bene che la seggiovia già c'è, basterebbe, c'è una seggiovia e una sciovia che hanno bisogno di essere ristrutturate, ma il progetto è una nuova seggiovia che quindi va a intaccare un luogo molto fragile come quello del Corno, che è anche un parco, lo va a rendere ancora più fragile in un momento, in un'epoca, diciamo, in cui io vivo appunto dal 2003 in Appennino, nevica sempre meno, e quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che per far funzionare questo sistema bisogna utilizzare risorse come l'acqua per sparare la neve, e viene distrutto un luogo, un territorio che invece deve essere tutelato. Per cui insomma i sollevamenti per quanto riguarda l'aspetto dell'Appennino hanno individuato come diciamo critica a questo sistema, a queste opere in itinere, insomma, che vogliono fare. Dopodiché chiaramente noi ci siamo collegati un po' a tutto il territorio, perché il problema non è delle singole opere, ma della visione d'insieme. Della visione d'insieme di questo sistema che sfrutta che sfrutta il territorio, che sfrutta la vita della gente, perché poi alla fine tutto questo comporta fatiche e difficoltà nel vivere di tutte le persone in qualsiasi luogo, dalla pianura alla montagna. La montagna è sempre stato un territorio molto fragile, ed è sempre stato un territorio che in fin dei conti è stato sfruttato e non curato e mantenuto e tale per cui la gente può tranquillamente viverci con i servizi necessari a una vita dignitosa in ogni luogo, insomma. Certo. Noi siamo partiti un po' da questa visione un po' generale. Qui in Appennino appunto ci siamo, abbiamo fatto queste tre marce che hanno toccato vari, perché appunto volevamo vedere e toccare con i nostri piedi i territori, e per dire appunto il discorso della seggiovia, ma come sarà adesso quello del... infatti è nato anche un nuovo comitato contro le paleoliche nel territorio tra Camugnano e Castiglione dei Pepoli, o come sarà il discorso del nucleare che ci stanno perché hanno ricominciato a proporre come soluzione a un problema che nasce dal problema, perché noi non abbiamo bisogno di più energia, abbiamo bisogno di preservare questa terra, insomma questo, i nostri luoghi, e far sì che possano essere vissuti con la cura nel confronto del territorio e con la cura nel confronto delle persone. E quindi insomma il discorso di base che noi facciamo è: non vogliamo più che l'economia predomini e quindi vincoli, soldi in opere che non servono, che devastano, che non hanno come prospettiva la tutela di un territorio, insomma, ma è sempre un discorso di sfruttamento dei territori. Ti ringrazio moltissimo per questa panoramica generale sulla situazione dell'Appennino tosco-emiliano. Tra l'altro nominavi proprio la marcia e anche i progetti del Corno alle Scale, quindi della Seggiovia di Camugnano e del progetto per il nucleare sul Brasimone, e infatti sono proprio i tre punti che sono stati toccati dalla marcia del 2024, prima di arrivare a Bologna, no? Sì, esattamente. E noi stiamo ancora, come dire, il nostro impegno è ancora rivolto a questo, perché comunque, diciamo, sono un po' i fari di queste, di come funziona il sistema capitalistico, insomma, che ci impone una vita di un certo tipo, territori che non vengono tutelati. Sappiamo benissimo che negli ultimi anni, con le alluvioni in pianura e con i dissesti idrogeologici che ci sono stati in montagna, cioè la situazione dell'Appennino è sempre più critica. Sì, sì, sì. Tu dove giri in Appennino trovi una frana da una parte, uno smottamento dall'altra, strade chiuse, cioè anche piccole strade che non c'è un'economia che le ristabilisca, perché è un'economia che sfrutta e non cura questo territorio. Grazie, grazie mille. Bene. Beh, il momento di chiudere questa puntata di Ponte Radio. È stata una puntata molto densa, piena di voci diverse che ci hanno portato diverse spunti. Esatto, sì, spunti sulla montagna, sullo sport e sulle Olimpiadi, sull'Appennino. E io avrei una chiusura, cioè, non so se perfetta, però sicuramente una chiusura che un po' riprende tutti questi fili, questi sassolini che abbiamo lasciato durante la puntata e magari li raccoglie. Sì, esatto, ci passa dietro, li prende su tutti e ci accompagna verso la chiusura. E quindi sentiamo il compagno di Milano che abbiamo ascoltato anche prima, di Ape Milano. Bene, e vi salutiamo al prossimo Ponte Radio ogni venerdì. Dal prossimo Ponte Radio si farà dall'1 alle 2:30, non più dall'1 alle 3, però avremo dei nuovi compagni e compagne di giochi, ovvero Radio Blackout, che inizierà a fare parte di Ponte Radio. Perciò dalla prossima settimana ci potrete ascoltare su Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Stachio, Radio Quar, Radio Neanderthal, Radio Spore e Radio Blackout. Evviva! E vi invitiamo a partecipare alle varie escursioni / manifestazioni che si terranno in diversi posti dell'Italia. Potete trovare la mappa delle mobilitazioni di queste camminate resistenti. Ci saranno in diversi posti, dalla Lombardia all'Appennino tosco-emiliano, alle Marche, al Molise, alla Basilicata, al Terminillo nel Lazio. Insomma, vi invitiamo a partecipare il 9 febbraio. Trovate questa mappa su ape-alveare.it. La montagna non si arrende. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. quando noi scegliamo la viandanza comune, il cammino collettivo, il passo lento, la tutela dell'ambiente montano e le battaglie antifasciste e lo sport popolare, tessere di un mosaico apparentemente disgiunto, inizialmente incomprese, in realtà lo facciamo nel solco di una tradizione che non è nobile per estrazione, ma è certamente grandiosa per la sua generosità. I fratelli Tani andarono in montagna credendo al loro Dio e alla rivoluzione. Li chiusero ad Arezzo per giorni seviziati e il vento fu strozzato dentro la prigione. Gabriella De Rosé, il suo amore partigiano, correva la salita tra i colli della foce. La videro volare tra i monti dal suo fiore, un colpo e se ne andò, la videro dormire. Compagni Sarri, Grazie ed Antonini, che dalla Val di Chiana andarono con Licio, per giorni torturati dai fascisti bergamaschi, infine fucilati lungo un muro di Foiano. Fuochi sulla montagna per questa strada, fiori sulla montagna per la mia storia. Lastrucci e Zavagli, anche loro incarcerati, da Capolona un giorno eran partiti. Avevano 20 anni e li hanno fucilati, alla stazione di Subiano li ha lasciati. E russi ed albanesi ed altri dalla Spagna, e poi sudafricani che vennero in montagna, che come Bujanov si unirono alla lotta, versando il loro sangue nei giorni partigiani. Fuochi sulla montagna per questa strada, fiori sulla montagna per la mia storia. Fuochi sulla montagna per questa strada, fiori sulla montagna per la mia storia. E quanti miei compagni appesi ed impiccati a Talla Loro, al Borgo, a Castel Focognano. Sono tante le battaglie che abbiamo combattuto a Cetica nei boschi e in tutto il Casentino, ed in Val Tiberina e nella Val di Chiana, così come in Val d'Arno è antica la rivolta che porterò con me per tutta la mia storia. È l'aria del presente e domani di memoria. Fuochi sulla montagna per questa strada, fiori sulla montagna per la mia storia. Fuochi sulla montagna per questa strada, fiori sulla montagna per la mia storia. Recuerdo que no tengo de los cantos. cantos del abuelo, pum miro parirá, perureira, pum pim parirá, pai, pum miro parirá. Que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Pum, miru, parirá, perureira, pum, min, parirá, pai, pum, miru, parirá. Parirá, perureira, pumbim parirá, pai, pumbiru parirá, perupero, pai. Cuando me vaya pa'l monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Spalle tutto il male, con un inno nuovo da imbracciare. Dall'altra per il crinale, prenditi il tuo tempo per per respirare. Lubrifica i sensi per mirare. E sottovoce ricorda di cantare. Noi sbandati, noi disertori, sosteniamo la terra. Miscredenti d'immensa fede, noi spalanchiamo il cielo. Noi sbandati, noi disertori, sosteniamo la terra. Miscredenti d'immensa fede, noi spalanchiamo il cielo. Apri il cuore all'improvviso, apri il cuore. Che abbaglia c'è un mondo da mare. Lasciarsi alle spalle il mondo che muore. Se la guerra in furia sei tu quel rumore. C'è un nuovo silenzio da abitare. Quando la notte ritorna, riprendi a cantare. Noi sbandati, noi disertori, sosteniamo la terra. Miscredenti d'immensa fede, noi spalanchiamo il cielo. Noi sbandati, noi disertori, sosteniamo la terra. Miscredenti d'immensa fede, noi spalanchiamo il cielo.

il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimandjaro. Don't you know that there ain't no mountain high enough? I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing and perform, I just knew that it's what I wanted to do, so I started singing in church.